attesa al tuo ricordo. È da un bel pezzo che non ci sei. Resto solo anche se solo fino ad oggi non sono stato mai. È di notte che ti penso, ma la notte mi insegna che il tempo non cancella, rende solo più debole. E sai, cantare d'amore intacca la realtà. E noi siamo parti opposte senza tregua. Del passato, anche se si può fare un errore illogico, la polvere si posa sulla nostra mia. Questa immagine sfocata non è più la mia, non è più la mia. E sai, cantare d'amore intacca la realtà. E noi siamo parti opposte senza tregua. Viviamo nelle stesse situazioni, come sabbia che corre via dalle mani. Se la stringo forte, la stringo ancora, la perdo insieme a te. Viviamo nelle stesse situazioni, come sabbia che corre via dalle mani. Se la stringo forte, se la stringo ancora, la perdo insieme a te. Sulla pelle, leggimi dentro un po', dipingo di colore un quadro in bianco e nero, di quell'immagine sbiadita resta solo la poesia, un foglio scritto a matita prende la forma di un'idea. E sai, cantare d'amore intacca la realtà. Siamo petali che volando nell'aria, senza logica, senza schema, leggeri come versi assonanti in rima. Se li stringo forte, li stringo ancora, mi perdo insieme a te. Viviamo nelle stesse situazioni, come sabbia che corre via dalle mani. Se la stringo